father was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. I nomi delle cose. La trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Una Rossa. Ciao a tutte. Cominciamo con, direttamente con l'approfondimento che avevamo preparato per la volta scorsa, quando la trasmissione non c'è stata perché c'era l'assemblea in diretta, l'assemblea Notav. L'approfondimento si intitolava I CIE, le guerre neocoloniali, una presidente della Camera. E questo titolo già vi dà un attimo l'idea del perché abbiamo scelto questo approfondimento, da dove ci è venuta questa voglia. Allora, alla presidenza della Camera è stata eletta una donna e con una carriera particolare. È stata eletta una donna che è stata nel 1989, ha cominciato la sua carriera all'ONU lavorando per 4 anni alla FAO. Dopodiché ha lavorato presso il Programma Alimentare Mondiale come portavoce per l'Italia. Poi fino al 2012 è stata portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Oltretutto, per questo ha coordinato anche le attività di informazione in Sud Europa e si è occupata dei flussi di migranti e rifugiati nel Mediterraneo, cioè i famosi barconi, i famosi attraversamenti del mare, i famosi migranti. Allora, forse dobbiamo un attimo ricominciare da capo perché era andato via l'audio. Dicevamo che ci era venuto in mente di fare questo approfondimento, i CIE, le guerre neocoloniali, una presidente della Camera, perché da pochissimo tempo è stata eletta una donna propria presidente della Camera e questa donna ha una carriera particolare. Perché ha cominciato la sua carriera all'ONU lavorando per 4 anni alla FAO e poi ha lavorato presso il Programma Alimentare Mondiale come portavoce per l'Italia, poi fino al 2012 è stata portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e si è occupata dei flussi in particolare, dei flussi dei migranti e dei rifugiati nel Mediterraneo. Ha svolto numerose missioni in luoghi di crisi, di guerra, le famose guerre umanitarie, fra cui la ex Jugoslavia, l'Afghanistan, il Pakistan, l'Iraq, l'Iran, il Sudan, il Caucaso, l'Angola e il Ruanda. Oltretutto, durante queste, durante, dopo, insomma, come frutto di queste sue missioni, ha fatto 2 libri in cui vengono esaltate, non so, le caratteristiche, le doti umanitarie del nostro personale, delle nostre truppe, proprio in queste guerre umanitarie. It's got you under its spell. Moving so fast. But going nowhere. stata eletta nelle liste di SEL. No? E la sua presenza nelle liste di SEL è stata voluta fortemente dal leader del partito Nichi Vendola. Oltretutto la sua candidatura è stata inclusa senza passare dalle primarie. Ma, allora, è una persona che nel suo discorso di insediamento ha detto delle cose che sono particolarmente importanti per quanto riguarda l'attenzione ai migranti e per quanto riguarda l'attenzione alle donne e alla violenza sulle donne. Did the clown make you smile? He was only a fool for a while, but now he's gone back home and left you wandering there. Poco prima, insomma pochi giorni prima del suo insediamento come presidente della Camera, in un giorno particolarmente significativo, cioè l'8 marzo, ha fatto il seguente discorso. A tutte quelle donne che, pur nascondendo i loro volti con una sciarpa perché temono ritorsioni, non rinunciano a denunciare gli abusi subiti e che con coraggio e determinazione testimoniano la tragedia di un popolo, a loro la prova vivente delle atrocità commesse dal regime, nota si riferisce alla Siria, che si accanisce contro i suoi cittadini, va tutta la mia solidarietà in una giornata che ricorda al mondo quanto essere donna significhi ancora a ogni latitudine essere discriminata, usata, violata. In Siria è in corso un disastro umanitario con milioni di persone in fuga, ma il mondo sembra voltarsi da un'altra parte, sordo alle richieste di porre fine a tanto spargimento di sangue. Per quanto ancora le voci di queste donne verranno ignorate? Allora, peccato che le voci delle donne prese in considerazione siano soltanto quelle dei paesi che l'Occidente intende aggredire e in cui ha i suoi bei interessi neocoloniali, e se ne dimentica subito di queste voci di donne appena si è appropriato delle ricchezze di quei paesi, rivolgendosi altrove. Infatti adesso è la volta della Siria. Allora, c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna perché tutte le belle parole che ha detto la Presidente della Camera stridono terribilmente con quello che viene fatto in effetti e con quello col percorso da cui viene. E cioè, per questo ci è venuto in mente di, ci sono venuti immediatamente in mente i CIE e ci è venuta in mente la storia dei CIE e ci è venuta voglia di parlare dei CIE, perché i CIE infatti sono stati creati come CPT con la legge Turco-Napolitano, primo governo Prodi, Giorgio Napolitano ministro degli interni, Livia Turco ministra della solidarietà sociale, Luigi Berlinguer ministro della pubblica istruzione, Pierluigi Bersani, ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato, Tiziano Treu, ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Rosi Bindi, ministra della Sanità, Walter Veltroni, ministro dei Beni Culturali. Sì, la legge, come diceva Elisabetta, venne approvata. Scusate, problemi tecnici. No. C'è uno strano rumore. Un strano rumore, aiuto. Scusate, problemi tecnici, eccoci. Dicevamo che, come anticipava prima Elisabetta, la legge Turco-Napolitano venne approvata anche con il voto favorevole del partito dell'allora partito di Rifondazione Comunista, compreso l'attuale segretario di SEL Niti Vendola. E la legge ha introdotto il principio di detenzione amministrativa. Oltretutto è stata approvata per alzata di, cioè per chiamata diretta, non per voto segreto, no, per chiamata diretta, quindi è un'approvazione nominale. E la legge quindi ha introdotto il principio di detenzione amministrativa, per cui si può essere internate e internati per una condizione. E la detenzione quindi per condizione e non per reato, che significa che avviene non per quello che hai fatto ma per quello che sei, quindi per la tua condizione di immigrato clandestino. Sì, in questo momento di immigrato clandestino, ma può riguardare qualsiasi soggettività un domani che non sia gradita a questo sistema, perché è per condizione, per quello che sei. Per questo infatti noi pensavamo che questo reato per condizione sia particolarmente grave e soprattutto per le donne che come soggettività sono particolarmente a rischio, perché se non rientrano nei ruoli prestabiliti, quindi possono essere oggetto di condanna sociale. Sì, sono dei soggetti, delle soggette particolarmente esposte, come tutte le diversità, no? Tutte le diversità sessuali, tutte le diversità sociali, a cominciare da tutti quelli e tutte quelle che non hanno fissa dimora, che sono mendicanti, che non hanno nulla per sostenersi, le prostitute, non parliamo delle prostitute poi, che sono una soggettività estremamente debole. E anche durante il fascismo questo è avvenuto, infatti vennero introdotti in Italia negli anni 30 i campi di internamento, dove venivano proprio rinchiuse le persone non per aver commesso un reato ma perché ritenute pericolose socialmente, quindi gli antifascisti, i rom, gli omosessuali oltre appunto anche agli ebrei. Passaggio importante dallo stato di diritto allo stato etico, quindi è un vero e proprio vulnus nel diritto ed è, diciamo, che una delle prime configurazioni di questo tipo di impostazione è tedesca, con il Tatterschuld, che è il reato d'autore, chiamiamolo così, il reato, una configurazione di reato per quello che si è e non per quello che si è fatto, ed è entrata nel diritto tedesco negli anni 30. Allora, se ne deduce chiaramente che, guarda caso, le politiche migratorie hanno qualche cosa a che vedere con i CIE, perché chiaramente i CIE non sono altro che strumento di controllo sia dei flussi, sia delle soggettività che cercano di entrare in Italia. Ma prima di tutto chiediamoci anche da dove vengono, perché chiaramente vengono dai paesi che il neocolonialismo ha aggredito, vengono da tutti quei paesi in cui gli appetiti delle potenze occidentali si sono scatenati. E quindi politiche migratorie, flussi nel Mediterraneo, rifugiati, sono direttamente collegati con i CIE, quindi non può essere che la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, o perlomeno, siccome lo sa benissimo la mano destra cosa fa la mano sinistra, significa che è un'impostazione ipocrita. Però non è un'ipocrisia che è una caratteristica personale, no? Cioè, non è che uno taccia di ipocrisia come caratteristica personale la presidente della Camera. Questo tipo di ipocrisia è una categoria politica, cioè è una vera e propria scelta di fondo della società neoliberista, di cui lei come figura istituzionale è partecipe e chiaramente è emblematica, ed è quella della strumentalizzazione diretta delle cause, degli effetti delle guerre neocoloniali, della violenza sulle donne, dei diritti negati, per portare le guerre umanitarie e, anzi, e anche qui da noi, per strumentalizzare la povertà e la miseria in funzione di una perpetuazione del sistema. go to the sun, pouring my life like I'd never done. But it's just the devil in me, the devil that's calling as I come undone. The sky is getting dark at night, darker than the fear that's gonna pull us apart. My beating is the sound of love, the sound of love is beating like a fevered heart. And it's the fire, the fire. Cosa che mi veniva in mente è che rispetto al discorso donne CIE, l'unico modo in cui è possibile che una donna in CIE non possa uscirne, insomma, è il discorso della tratta. Quando è più o meno dimostrato che questa donna è vittima di tratta, allora è possibile farla uscire. Questo è sicuramente legato al fatto che la tratta è tranquillamente strumentalizzabile da, diciamo, più o meno quasi tutto il mondo occidentale, come discorso che in realtà non dà chance alle sex workers che stanno, insomma, da noi, diciamo, per non fai ottenere nessun tipo di progresso, di diritto, di qualsiasi cosa, insomma. E no, vabbè, volevo aggiungere questo. Sì, perché poi il problema del dichiararsi vittime di tratta è un problema estremamente delicato, perché presuppone anche un percorso di denuncia, cioè un percorso di denuncia di chi le ha portate qua, dei chiamiamoli così protettori, e comunque di tutto il circuito che le ha inserite in questo tipo di discorso. Al di là del fatto che molto spesso questo tipo di impostazione viene sentita in maniera come delazione dalle donne che vengono spinte a denunciare chi le ha portate qua, che detto brutalmente è un percorso di delazione, cioè non è che cioè, non ha bisogno, però fa proprio parte del concetto con cui si affronta la prostituzione per un verso e il soggetto che per essere aiutato, il soggetto o la soggetta deve pentirsi, no, di qualche cosa. È proprio nell'ottica di questo sistema che deve essere aiutato chi si pente e riconosce di aver fatto qualcosa di sbagliato. A parte il fatto che poi proprio all'interno del discorso delle vittime di tratta, le donne vittime di tratta nei CIE, c'è un particolare non insignificante da tenere presente, che la concessione poi del soggiorno non è automatica, quindi dopo che loro hanno denunciato il percorso e hanno fatto i nomi e compagnia bella, il magistrato può non ritenere sufficiente, quindi non dargli il permesso di soggiorno, e quindi loro restano un'altra volta esposti, oltretutto anche alla vendetta di chi è stato denunciato. E poi c'è un grande pericolo di ritorsione nei confronti dei familiari e comunque di tutte le persone a loro care che sono rimaste al paese d'origine. Quindi questo qui, che sembra un discorso buonista di fondo, è un percorso estremamente pericoloso, un'arma a doppio taglio. Un piccolo dettaglio, insomma, che non mi pare che fosse molto chiaro quando ho parlato. Il discorso tratta comprende anche la prostituzione forzata, ma non è solo quella. Vabbè, solo questo, insomma. Philosophy is walk on the slippery rocks. Religion is a light in the fall. I'm not aware of too many things. I know. altro punto che ci interessava riguardo appunto le leggi sull'immigrazione era, diciamo, è quello che producono su i lavoratori e le lavoratrici immigrati, nel senso che naturalmente questo tipo di politica sull'immigrazione fa sì che i lavoratori e le lavoratrici sono particolarmente ricattabili, vivono delle condizioni maggiori di sfruttamento, proprio perché il loro permesso di soggiorno è legato al contratto di lavoro, e quando invece sono in nero sono costretti ad accettare condizioni di paghe, orari molto più, insomma, diciamo, da schiavitù, ecco. E sempre con l'incubo, insomma, del CIE, e quindi della reclusione. Quindi questo serve poi allo Stato anche per avere un maggior controllo sulla classe lavoratrice immigrata. E non soltanto sulla classe lavoratrice immigrata, cioè quello che ha detto Elena è tutto giusto, è tutto vero, però è un grande strumento di ricatto anche nei confronti degli altri lavoratori, perché nel momento in cui la manodopera migrante è costretta a vendere la propria forza lavoro a prezzi bassissimi, sotto ricatto e in nero, tutto questo è uno strumento di ricatto nei confronti di tutti quei lavoratori che invece vorrebbero qui da noi rivendicare diritti, e comunque cioè la famosa storia che mettono in concorrenza lavoratore e lavoratore. Oltretutto c'è anche un altro problema, che non solo mettono in concorrenza lavoratore e lavoratore, ma anche povero contro povero, perché il lavoratore italiano, la lavoratrice italiana, viene spinta a un discorso di stampo razzista, e quindi a vedere il diverso e quello che proviene dai territori, da zone fuori dai confini italiani, come qualcuno che porta via il lavoro. E oltretutto le ondate migratorie vengono poi utilizzate anche per mettere paura alla popolazione e quindi per far accettare poi in maniera più facile tutta una serie di leggi di restrittive, leggi securitarie, che insomma leggi per la sicurezza. Or if I could pray, and I tried, dear, you might come back home to me. Maybe. Whoa, whoa, whoa. If I could ever hold you under the hand, ooh, you might understand. To admit it. Quindi la lotta contro i CIE è particolarmente importante, perché investe vari aspetti della società. Da un lato i CIE sono uno strumento molto forte di controllo sociale, come avevamo detto prima, sia perché sono rivolte a soggettività che sono secondo questo sistema fuori dalla norma, dall'altra perché danno la stura per leggi securitarie, dall'altra ancora perché il controllo sociale viene esplicitato anche con appunto la lotta del povero contro la guerra del povero al povero e il fomentare atteggiamenti razzisti nella popolazione locale. E tanto per ritornare un attimo al discorso di partenza da cui abbiamo preso il via, tanto più quindi la strumentalizzazione e il buonismo di cui si ammantano i discorsi fatti dalla Presidente della Camera stridono, ed è proprio evidente la strumentalizzazione di queste cose per poter continuare a perpetuare queste stesse cose. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia. Il discorso, appunto, come diceva Elisabetta, è assolutamente contraddittorio, proprio perché parlare di violenza sulle donne nella giornata dell'8 marzo e poi non parlare di quello che appunto rappresentano i CIE, anche come posti in cui viene esercitata normalmente la violenza verso uomini e donne, in particolar modo verso le donne, anche con violenze e ricatti di tipo sessuale. Sì, diciamo che a parte il fatto di tantissimi episodi che sono accaduti, accadono di violenze sessuali, di violenze sessuali, fisiche, psicologiche nei confronti delle donne. Nei confronti delle donne che sono internate nei CIE c'è un atteggiamento di fondo per cui sono tutte puttane, cioè sono considerate di per sé tutte puttane e sono bottino di guerra. Perché sono bottino di guerra? Cioè il CIE di fatto ripropone nel piccolo quello che succedeva una volta su grande scala quando si conquistava un paese nemico, le donne diventavano bottino di guerra e gli uomini venivano fatti schiavi. Adesso in una società che si dichiara civile, chiaramente questo viene fatto in altro modo, quindi vengono costruiti CIE, noi facciamo le guerre neocoloniali, le persone disperate che scappano da quei paesi che noi abbiamo depredato e vengono qua, vengono di nuovo considerati nuovi schiavi e le donne sono di nuovo bottino di guerra, per cui quelle che sono internate lì dentro prima di tutto sono considerate, devono essere disponibili perché sono considerate tutte alla stregua di oggetti da usare, e quindi il significato classico del bottino di guerra che viene, come sempre è stata definita la donna nei campi, negli scenari di guerra, nei scenari militari. Thank you. con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Allora, volevamo finire questa prima parte della trasmissione con una nota a margine che non riguarda i CIE, ma riguarda la Presidente della Camera. Riguarda sempre questo atteggiamento socialdemocratico di strumentalizzazione e di moralismo che investe le donne che si dichiarano dalla parte delle donne. Allora, che cosa è successo? Il cantautore Franco Battiato, in un incontro a Bruxelles, intervenendo a un convegno nella sede del Parlamento europeo in qualità di assessore al turismo della regione Sicilia, ha dichiarato: ci sono troie in giro in Parlamento, inteso in Parlamento italiano, che farebbero di tutto, dovrebbero aprire un casino. La Presidente della Camera ha dichiarato: da Presidente della Camera dei Deputati e da donna respingo nel modo più fermo l'insulto che da lui arriva alla dignità del Parlamento. Neanche il suo prestigio lo autorizza a usare espressioni così indiscriminatamente offensive. La critica alle manchevolezze della politica e delle istituzioni può essere anche durissima, ma non deve mai superare il confine che la separa dall'oltraggio. L'ineffabile Presidente della Camera parla di insulto alla dignità del Parlamento. Ma la dignità del Parlamento è insultata tutti i giorni da quelle donne che approvano i tagli allo Stato sociale sulla pelle delle altre donne, da tutte quelle che appoggiano e sponsorizzano le guerre neocoloniali, da quelle che hanno abolito l'articolo 18, da quelle che strumentalizzano la violenza sulle donne per le politiche securitarie, per vittimizzarci, per mantenerci nella subalternità, per avallare le aggressioni ai paesi del terzo mondo, da quelle che approvano le cosiddette riforme gettando sul lastrico donne e uomini di questo paese, dalle donne in divisa, da tutte quelle che sono strumento di controllo sociale e di puntello del sfruttamento su tutte le altre donne. Tutte queste sono nostre nemiche e giù le mani dalle troie, per favore. Di essere ombre al fin come sangria che a veces da salud e a veces de fiera ofendida con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós una de amor y de tu seña una sonrisita y de tu La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Dire a nuora perché suocera intenda. Cipro è una piccola isola divisa di fatto in due parti separate. Una sotto il controllo della Repubblica di Cipro, di popolazione greco-cipriota e di religione ortodossa, che comprende circa il 59% della superficie dell'isola. L'altra, che si autodefinisce Repubblica Turca di Cipro del Nord, di popolazione turco-cipriota e di religione musulmana. Nel 2007 la parte greco-cipriota è entrata nella zona euro. In questi giorni è diventata di interesse internazionale perché l'Unione Europea ha chiesto delle garanzie per un prestito salvataggio, come viene definito, per l'economia della Repubblica di Cipro. Questo prestito verrebbe concesso per evitare il default. Nella notte tra lunedì e martedì è stato raggiunto l'accordo Unione Europea-Cipro. I ministri delle finanze dell'Eurozona hanno approvato l'intesa, raggiunta appunto nella notte di lunedì, tra il presidente cipriota Nikos Anastasiades e la Troica, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale. Questa intesa prevede la chiusura della Larik Bank, la seconda del paese, e il congelamento dei depositi sopra i 100.000 euro. Le banche per ora restano chiuse, o comunque queste sono le notizie che ci passano, non sappiamo quanto siano vere e quanto non siano vere, ma ha poca importanza tutto sommato il particolare. Era già stato firmato un primo accordo che aveva previsto il prelievo forzoso del 20% sui conti correnti sopra i 100.000 euro e il tetto di 100 euro nei prelievi al Bancomat. Il salvataggio previsto dall'Eurozona è di 17 miliardi di euro. 10 miliardi li mette l'Unione Europea e 7 li deve trovare Cipro con il sistema che gli è stato esplicitamente suggerito e imposto. Ora, guardiamoci negli occhi. Che cosa sono 17 miliardi di euro per l'Unione Europea? Più o meno il corrispettivo per noi di un cappuccino al bar. E allora, perché infierire sull'economia cipriota? Non facciamoci influenzare chiaramente dalle notizie strumentalmente messe in giro, cioè riciclaggio di denaro sporco, depositi russi. Per due motivi. Uno riguarda il giacimento di gas naturale di importanti dimensioni trovato al largo delle coste cipriote che attraverso l'Inghilterra dovrebbe passare a Israele. L'altro è dire a nuora perché suocera intenda. Cioè i prelievi forzosi sui conti ciprioti sono il banco di prova di un metodo che verrà applicato in altri paesi, prima fra tutti l'Italia. La popolazione italiana ha le caratteristiche giuste, è la meno indebitata come debito privato, ha ancora il mito della casa di proprietà e del risparmio e la possibilità di rastrellare molti soldi dalle tasche degli italiani è altissima. Cosa c'entra il femminismo con tutto questo? Le modificazioni economiche e il cambiamento del modello incidono direttamente sulla configurazione sociale e sulla cultura e non viceversa. Da diverso tempo, in concomitanza con le scelte neoliberiste, vengono riproposti pesantemente modelli e ruoli del femminile che rivalutano il lavoro di cura, esaltano le caratteristiche di dedizione, comprensione, attenzione verso gli altri, guarda caso in concomitanza col taglio dei posti di lavoro, con lo smantellamento dello Stato sociale, che esaltano il ruolo materno, guarda caso in concomitanza con la distruzione dei servizi pubblici che ripropongono l'allattamento al seno per mesi come valore, guarda caso con il drastico ridimensionamento dell'occupazione della stragrande maggioranza delle donne. E siccome niente è casuale, dagli Stati Uniti, sempre da lì, ci arriva il dibattito che infiamma le americane, l'ultima frontiera del femminismo, le casalinghe femministe. Un trend sempre più diffuso, ci dicono, tra le donne che decidono spontaneamente di diventare mamme e casalinghe a tempo pieno. Non si può essere riformiste e femministe. Il femminismo è antagonista, anticapitalista e percorre strade di uscita da questa società. Lo diciamo anche noi alla nuora perché suocera intenda. Ciao. Thank you. E adesso c'è la seconda parte, come tutti gli ultimi mercoledì del mese, c'è l'approfondimento di Dennis, l'approfondimento quelle che non hanno il genere ma hanno la classe. Buonasera a tutte e tutti. Riporto quello che dice l'ANSA del 23 marzo. Inaugurata oggi ad Ancona la prima statua in Europa dedicata alle donne vittime di violenza. Violata, opera di Floriano Ippoliti, è frutto di una sinergia tra regione e associazioni femminili, privati e il comune di Ancona, che l'ha accettata in dono. In un messaggio alla presidente della Commissione regionale pari opportunità, la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha annunciato che solleciterà il Parlamento affinché si approvi in tempi rapidi una legge contro il femminicidio. Vabbè, già le compagne hanno presentato che soggetto è Laura Boldrini, quindi non penso di dovermi dilungare particolarmente. Vabbè, tralasciamo, anche se è molto difficile, la qualità dell'opera in questione, sulla quale stenderei un velo pietoso. Non so se l'avete vista, ma è una specie di puffa gigante svestita con una borsetta in mano. Se non facesse piangere, farebbe venire da ridere. Qualcuna se ne lamenta, definendola come un'offesa alle donne, senza però scendere nel merito. Innanzitutto sarebbe anche ora di farla finita con l'indicare il nudo in generale come offensivo. Va bene che abbiamo il Vaticano a distanza di uno sputo, ma andiamo oltre il cattolicesimo, per favore. Detto ciò, a me sembra che la colpa della statua, e cioè dell'artista, visto che la statua sola, insomma, difficilmente fa qualcosa, sia per l'ennesima volta di raffigurare una vittima. Ci dovevamo aspettare forse altro? La risposta è no. Commemorare le vittime è una cosa piuttosto diversa dal creare consapevolezza o qualcosa che rappresenti l'impegno contro la violenza. Per fare un esempio, quando un capo di Stato elogia coloro che mandano avanti la società, lavoratrici, lavoratori, eccetera, elogia appunto quella loro condizione, dal momento che se non fossero più tali, per una questione logica, non manderebbero più avanti un bel niente. In tal senso, pensare che il capo di Stato in questione voglia tanto bene alle proletarie e ai proletari è di un'ingenuità totale. In realtà elogia la loro oppressione. Quindi sicuramente non gliene importa un fico secco né della loro liberazione né di garantirgli il minimo indispensabile della sopravvivenza, se non per contentino. Allora, perché aspettarsi che una statua rappresenti la lotta? Non è mica utile al capitale. In momenti di crisi, ovviamente non dal punto di vista mio ma da quello del capitale, è necessario promuovere casalinghitudine, perché serve la famiglia come ammortizzatore sociale. In tal senso non vengono contemplate nemmeno altre tipologie di famiglie, perché le uniche famiglie utili sono quelle che possono produrre nuovi piccoli sfruttati e consumatori. Il femminismo e le lotte queer smantellano questi puntelli, e quindi via le distrazioni di massa che fanno puntare il dito contro le affermazioni di Berlusconi, di Battiato e di chissà chi. Sono schifezze e non è questo che viene messo in dubbio, ma finiscono per scatenare indignazioni da click attivismo e social network, dove ognuno, battendo furiosamente sulla tastiera e pubblicando il commentino arrabbiato, potrà sentirsi meno responsabile di come procede la situazione. Quindi è perfettamente coerente che chi non fa nulla per far sì che nessuna venga uccisa commemori le vittime. In fondo gli stadi hanno monumenti al milite ignoto e sono gli stessi che mandano gente a farsi macellare per la felicità delle industrie della guerra e per quella di chi può neocolonialisticamente appropriarsi di risorse altrui. Vogliamo immagini che ci rappresentino? Realizziamole e appiccichiamole ovunque. Tolgono fondi a centri antiviolenza e consultori, teniamoli in piedi con l'autogestione. Non c'è bisogno dei fondi istituzionali, non c'è bisogno di addomesticamento, non c'è bisogno di autorità e di padroni. L'establishment produce merdosità estetiche. Il subvertising esiste anche per questo. E comunque, di un fronte unitario delle donne, senza conflitti di classe ed etnia, come se proletari e migranti non esistessero, non ce ne facciamo nulla di utile. Intanto direi che potremmo rinominare questa statua come monumento al femminicida ignoto, e mica tanto ignoto dopo tutto. Vabbè, dopo tutto ciò un'ultima considerazione la farei sul concetto di femminicidio in sé, che esclude tutte quelle che in un modo o nell'altro non rientrano nel modello sessista della provetta casalinga schiava ammazzata per sbaglio o per delitto passionale, come insomma qualche giornale si ostina ancora a chiamare. È razzista perché le donne di colore non esistono e non vengono considerate, transfobico perché spesso si riconduce l'oppressione a una presunta violenza innata di chi nasce maschio. Per non parlare delle lavoratrici del sesso, secondo qualcuna è quasi fisiologico che debbano subire violenza. Una legge contro il femminicidio punisce il fatto compiuto non evitando minimamente spargimenti di sangue e men che meno fornisce reddito a quelle persone che vogliono emanciparsi da relazioni dove c'è un partner abusante. In sostanza non serve assolutamente a niente se non a strumentalizzare questioni femministe per creare ancora più sepoltura securitaria e ancora più prigioni per tutti e tutte. Esiste il concetto di violenza di genere, molto più ampio e che non si può trascinare per la giacchetta, perché i primi ad esserne colpevoli guarda un po', le istituzioni e il sistema economico. Usiamolo. Ruego en la boca, un ruego en el alma. Palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda. Comunque, se cercate il testo di questo intervento, lo trovate sul blog di Coordinamenta, che è coordinamenta.noblogs.org. De tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Volevamo ricordarvi anche il nostro indirizzo email, che è coordinamenta@autistiche.org, dove potete scriverci. E in particolare ci stiamo incontrando e stiamo discutendo su femminismo e materialismo, un argomento che ci interessa moltissimo, che stiamo sviscerando, e ci farebbe piacere se vi andasse di partecipare, di mandare contributi, idee, di dire che cosa vi fa venire in mente o di mandare dei pezzi che ritenete importanti. Quindi ci potete scrivere all'indirizzo che ha detto Elena un attimo fa, cioè coordinamenta@autistiche.org. E comunque le nostre riunioni sono il venerdì, anzi venerdì prossimo, al 22 alle 19:30, un venerdì sì e un venerdì no. Ya voy llegando, mija, qué pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo, mujer desnuda. El hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Per per tutte le persone interessate comunque l'approfondimento, quel che non hanno il genere ma hanno la classe, c'è ogni ultimo mercoledì del mese e sul blog che vi ho detto poco fa trovate sia i podcast che appunto i testi scritti e insomma fatevi in giro. E niente, quindi ci vediamo, ci risentiamo mercoledì prossimo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa dalle 8 alle 9 dopo il GR con I Nomi delle Cose, la trasmissione a cura della coordinamenta femminista e lesbica. Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e mi è venuta in mente una cosa così al volo per salutarvi, una cosa, dato che abbiamo parlato molto di istituzione, di istituzioni, di donne delle istituzioni, di quello che pensano, di quello che dicono, mi è venuta in mente una cosa da dire a tutte loro: non ci avrete mai come volete voi. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword. Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby, yeah. They must have paid her a nice price, she's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Should just peel.